Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua anche oggi con i Padri Eterni, una puntata un po' particolare. Insomma, anche noi stiamo lavorando, chi da casa, chi si connette da postazioni altre, ma volevamo esserci e siamo qua anche oggi un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri, e farlo in questo tempo, insomma, pensiamo sia importante esserci. E collegato da casa c'è Matteo Bussola. Ciao Matteo, buona domenica. Ciao Fede, buona domenica a te e agli ascoltatori. Come stai? Giorni tosti, le tue tre figlie? Insomma, sono giorni tosti come per tutti, insomma, indipendentemente che ci sia padri che si è costretti comunque ad andare a lavorare, oppure che ci sia padri che si è costretti a stare a casa perché le proprie attività sono chiuse. Insomma, sono giorni complicati. Io appartengo ai secondi, quindi sono qua H24 con le mie figlie, però devo dire che ho trovato un lato positivo in questa vicenda, Fede. Quale? Nel senso che non ho mai avuto la casa pulita come questi giorni, perché so che, come dire, tutti i pedagogisti inorridiranno, ma ho trovato il modo di unire la domanda all'offerta. Visto che le mie figlie continuano a chiedermi paghette, sai, poi soprattutto la più grande che sta entrando in adolescenza, ecco, ho attivato questo legittimo scambio. Loro hanno cominciato a riordinare un pochino, a pulire un pochino, a dare una mano all'economia domestica, e in cambio ricevono qualche piccolo obolo. Ho capito, la famiglia Bussola, almeno lei fa girare l'economia anche in queste giornate. Radio24.it, il nostro sito. Al termine della puntata potrete scaricare il podcast Padri Eterni @radio24.it. Come sempre, se volete scriverci, sarà ovviamente una puntata interamente dedicata al nostro essere a casa in questi giorni, al cosa fare con i nostri figli, come esserci anche in un modo nuovo, in un modo diverso. Avremo tanti contributi e anche tante idee, però partiamo con una testimonianza particolare, è quella di un amico, di un collega scrittore, di un papà che è stato anche ideatore di un progetto bellissimo insieme all'amico Andrea Valente, che in queste settimane ha veramente animato le giornate di tantissime bambine, tantissimi bambini. Sto parlando di Lezioni sul Sofà, ma lui soprattutto è stato uno dei primi in quarantena perché era all'interno della zona rossa e oggi iniziano a respirare. Quindi volevamo la sua testimonianza. Diamo il benvenuto a Matteo Corradini. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Credo che negli archivi della radio, visto che anch'io ho tre figlie e mi chiamo Matteo, credo che negli archivi della radio non ci sia mai stata una trasmissione nella quale due Matteo avevano sei figlie. Penso anch'io, sì. Credo che non ci sia, stiamo facendo un piccolo record in questo momento. Matteo, con grande affetto, ma non incontriamo mai. Serve un furgone. Matteo Corradini, ci siamo sentiti spesso in queste giornate, sei anche stato ospite di Alessandro Milan una decina di giorni fa, proprio dopo che avevate lanciato la vostra iniziativa, però in questi giorni ci siamo scritti, mi hai tenuto aggiornato anche di quello che succedeva nel tuo paese, nel tuo comune, nei comuni limitrofi, e con tante parole anche di speranza a noi padri. Intanto, da padre, come lo hai vissuto questo periodo, queste due settimane di quarantena forzata? Noi qui all'inizio l'abbiamo vissuto male, credo come tutta Italia, ma noi forse un po' di più, proprio perché si ammalavano gli amici, si ammalavano le persone che noi conoscevamo, e quando si ammala una persona che tu conosci non c'è cronaca che tenga, non c'è statistica che tenga. E soprattutto qua ci si ammalava a caso, all'inizio, nei primi giorni non c'erano delle linee guida, il virus era già qua e come una specie di lotteria c'era chi si ammalava e chi non si ammalava. Io da quel giorno mi sono chiuso in casa e ho cancellato tutti i miei appuntamenti e sono, credo, 21 giorni o 22 con oggi che sono in casa con mia moglie e le mie figlie, facciamo tutto da casa, esco con molte precauzioni a fare la spesa, e questa è la nostra vita da settimane ormai. E come l'hai spiegata alle tue figlie? L'abbiamo spiegata dicendo che c'è una malattia in giro, che è una malattia grave, non siamo entrati nei dettagli della gravità di questa malattia. La più grande delle mie figlie ha 10 anni E però abbiamo detto che la cosa giusta da fare per proteggerci tutti e per proteggerci anche gli altri è stare in casa. E loro, devo dire, non la stanno vivendo male, insomma, proprio perché non conoscono tutto quello che sta accadendo e loro la vivono con spensieratezza, con noia, litigano, quindi vuol dire che stanno bene. E, ogni giorno per certi versi si inventano qualcosa da fare, e, esattamente forse come fate voi in radio, ogni giorno cerchiamo di dare un palinsesto alla nostra giornata. Matteo? Sì, Matteo, senti, io avevo una curiosità, nel senso che voi siete state, cioè adesso in questo momento tutta l'Italia, no? È sostanzialmente zona rossa dopo le ultime novità, ma tu che abitavi realmente in una zona rossa, in una delle prime, se non la prima, vi siete mai sentiti stigmatizzati o colpevolizzati per questa ragione? Lo dico perché insomma viviamo in un paese che ha la straordinaria abitudine, no, di colpevolizzare le vittime. No, qui tra di noi ci siamo sentiti per certi versi molto uniti. La domanda come va non è mai stata così importante come in questo periodo, e noi la usiamo per tutto l'anno con noncuranza. Invece qua la domanda come va, come stai, è una domanda importantissima e noi continuiamo a farcela tra di noi, naturalmente via messaggio. La rete di amicizie che c'era prima per certi versi si è rafforzata. Io non so come ci vedano da fuori, forse proprio perché ci vedono male noi dobbiamo rimanere uniti, però ecco, di sicuro vista da dentro la situazione per certi versi è apparsa da subito molto più drammatica di quello che magari percepivano gli altri italiani, ma per certi versi vedendola da vicino è come quando vedi il mostro da vicino nelle favole o il mostro da vicino nei film, beh, vedendola da vicino poi vedi anche quali sono le caratteristiche di questa situazione e per certi versi te ne fai una ragione, riesci a contrastarla dentro di te. E poi ricordiamo, quindi, lezionisulsofa.it è il sito, insomma vi invitiamo davvero ancora a visitarlo, anche perché è aggiornato quotidianamente con nuovi contributi. Anche io e Bussola abbiamo fatto un piccolo video dove spieghiamo alle bambine e ai bambini come poter fare un'intervista radiofonica ai propri genitori. Matteo, come ti è venuta questa idea? Immagino vedendo le tue figlie sul sofà. Noi abbiamo sì un sofà a casa, è blu, e sapevamo che tanti bambini all'inizio, soprattutto di tre regioni, insomma Emilia, Veneto e Lombardia erano le prime regioni coinvolte, sarebbero stati a casa da scuola. Alle 3 di pomeriggio, ricordo, era una domenica, alle 3 di pomeriggio era la prima domenica dopo che tutto è arrivato anche in Italia. E, ho avuto l'idea alle 3 di pomeriggio, alle 4 di pomeriggio mia moglie mi ha detto chiama le lezioni sul sofà. E ho coinvolto Andrea Valente, insieme abbiamo mandato una mail a un centinaio di colleghi e colleghe scrittrici, illustratrici, scrittori, autori per ragazzi. Alle 23, quindi alle 11 di sera, ossia poche ore dopo, il sito era online con una cinquantina di contenuti che tutti hanno donato gratuitamente, quindi è stata una cosa velocissima, è nato dal niente in questo modo. Ed è un sito che vuole fare compagnia ai ragazzi a cui noi normalmente facciamo compagnia, perché noi scrittori per ragazzi normalmente andiamo nelle scuole, andiamo nelle classi, andiamo nelle biblioteche a incontrare i ragazzi, oppure facciamo compagnia a loro con i nostri libri. In questo momento forse i ragazzi hanno bisogno di più compagnia del solito, e ogni genitore, anche se non è uno scrittore di libri per ragazzi, in questi giorni si sta chiedendo come fare compagnia di più ai propri figli. Per certi versi questa forzatura, ossia stare in casa, passare più tempo insieme, è anche una cosa che ci mette alla prova dal punto di vista della nostra fantasia. Dobbiamo provare a inventarci come farci compagnia. Insomma, e voi siete riusciti, ci avete veramente dato un sacco di strumenti utili per alimentare questa fantasia. Ringraziamo Matteo Corradini, lezionesulsofa.it. In bocca al lupo per tutto, Matteo, e grazie ancora. Grazie davvero a voi. Ciao Matteo, grazie. Noi adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. One Express, One Express, il Pallet Express. Vi presenta... Padri Eterni. avanti che mi stendi. E allora dai, gioca con me. Fare l'amore è molto semplice. Non c'è nessun perché. Prendilo com'è. Eccoci qua ancora, i Padri Eterni, ed è il momento del gioco. Tu, Matteo, come te la cavi con i giochi? Cioè, sei uno di quelli che inventa giochi, cambia le regole o segui un po' il flusso delle cose che ti propongono le tue figlie? Sì, sì, cambia le regole è una cosa della quale vengo spesso accusato. No, comunque in generale noi non inventiamo molti giochi, devo dire, insomma, giochiamo serenamente con quelli che ci sono già, visto che ci sono persone che di lavoro lo fanno molto meglio di noi. E vi avevamo promesso delle dritte appunto sul come giocare in famiglia, e insomma abbiamo convocato la famiglia più giocosa d'Italia. Il loro canale YouTube è frequentatissimo, ci sono dei video molto divertenti con veramente tanti suggerimenti su quello che si può fare. Sto parlando della famiglia GBR, che sono giochi per bambini e ragazzi. Con noi c'è il papà, che è Davide Nonino, a cui diamo il benvenuto. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Buona domenica a te, Davide. Allora, siamo pronti, cioè, noi prendiamo appunti, non, altro non possiamo fare, a meno che tu non abbia da proporci un gioco radiofonico, ma non credo. Insomma, c'è tanto tempo in queste giornate, no? Si sono dilatate, il tempo si è liberato. Da padre a padri, cosa ci puoi consigliare? È una buona occasione, esatto, per giocare, perché è banale da dire, ma è vero, giocando si impara. E quello che diceva Matteo è perfetto, cioè si può partire da quello che abbiamo in casa, no? Quindi, ad esempio, anche giocare a raccontare storie con i propri giocattoli può essere divertente, perché prendi due personaggi, non so, una bambola, un supereroe, senza citare dei nomi, li metti assieme e dici, ok, prendo cinque giochi a caso, li metto davanti a me sul divano, che storia potrebbe nascere? Può essere già un piccolo gioco da fare. Ma una cosa molto divertente, siccome c'è bisogno anche di muoversi, lo possiamo fare in maniera limitata, è quella di creare un percorso in casa, che è una cosa sempre che piace tantissimo a piccoli e anche grandi, ma non una sfida di velocità, altrimenti la casa poi diventa danneggiata, ma magari una sfida anche di abilità, insomma, per cui bisogna passare sotto una sedia, si tira qualche filo con qualche campanello che può suonare e cose di questo tipo, e di solito coinvolge veramente molto, anche perché vedi la casa trasformata, ti sembra proprio di fare un gioco dentro casa tua. Oppure, se ad esempio avanza qualche post-it in giro per casa, si può inventarsi un gioco da tavolo tutto proprio, quindi si usa il post-it come casella, lo si mette magari sul tavolo stesso della cucina, quindi si trasforma il tavolo della cucina in un gioco da tavolo e ci si inventa le caselle, no? Quindi la partenza si disegna una bandiera, ci sono le caselle più uno, più due se si avanza, c'è quella per andare in prigione, si mette uno sotto il tavolo, un turno ad aspettare, e magari sfruttando i giochi che si hanno ci si inventa anche delle sfide e si crea così un'attività che dura anche un bel po' di tempo, perché poi è divertente, ci si prende, il giorno dopo magari si cambia l'ordine dei post-it, quindi il gioco cambia ancora, e può essere un'idea anche questa. Matteo, tutti i giochi che tu fai normalmente, no, stavo pensando a fare nascondino, tu Matteo potresti giocarti sotto la montagna dei vestiti da stirare, di cui spesso parli. Il buon vecchio Umberto, come lo chiamiamo noi qui amichevolmente. Sì, no, ma stavo pensando, finché ascoltavo Davide, no, che in realtà appunto dicevo noi andiamo di grandi classici alla fine, ma un gioco che viene molto sottovalutato, che noi usiamo qui soprattutto durante i compleanni a dire la verità, è la cara vecchia caccia al tesoro. Cioè funziona soprattutto, dicevo, durante i compleanni, no? Perché tu per guidare la tua figlia alla ricerca del suo regalo lo nascondi in determinati posti della casa, sotto la cesta appunto di cose da lavare, oppure sotto i cuscini del divano, oppure nel ripostiglio, e però devi disseminare in giro per casa questi bigliettini con scritti degli indizi. Potrebbe essere un'idea anche questa, con altri piccoli premi che non riguardano il compleanno, insomma. D'altra caso, Davide, insomma, stiamo parlando spesso anche di giochi che, insomma, vedono più bambini coinvolti. In verità tante bambine, tanti bambini sono figli unici, no? Quindi si trovano a giocare o da solo o con mamma e papà. E lì i giochi diminuisce il catalogo delle possibilità? Ma credo che si possa lasciare spazio alla creatività e alla creazione. Ad esempio, una cosa molto bella, sempre che vedi nel pratico, vedi nella tua camera magari, può essere quella di anche spostarsi sul lato creativo del ludico, del giocare. Di solito, non so, sia all'asilo che a scuola fai l'impronta della mano, no? Col pennarello. Pensiamolo in grande, se si ha la fortuna di avere un grosso foglio di carta in casa, o magari carta da pacco, o anche una tovaglia di carta avanzata dai compleanni, che diceva Matteo, ci si può distendere sopra, fare una sagoma gigante e poi disegnare il proprio personaggio, colorarlo, poi diventa un poster per la camera. Quello si può fare anche come attività da soli, ma anche che è molto rewarding, non mi viene in italiano, che molto ti ricompensa, perché poi vedi quello che c'è e puoi usare tutti i materiali creativi che hai a casa, dalla tempera, pennarelli, per scolare tutto. Dura un pomeriggio intero, lo assicuro, e ci si diverte molto, ecco. Fino magari a fare delle sfide con i genitori, no? Appunto, l'occasione di avere del tempo assieme da spendere, magari ci si può fare delle sfide, che ne so, si può usare anche lo smartphone come strumento attivo di gioco, no? C'è il cronometro, la sveglia, eccetera, si imposta un tempo. Chi riesce per primo magari a scartare una caramella con due forchette in quel tempo lì se la mangia, e così abbiamo anche la scusa per mangiarci una caramella in maniera sana, perché ci siamo divertiti, ecco. Può essere un'idea, insomma. Eh sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, molti papà anche non sono più forse abituati a giocare, no? Ci sono dei consigli anche da dare a loro? Il consiglio è proprio quello di buttarsi nel vero senso della parola. Ai bambini piace molto il contatto anche fisico, quindi buttarsi per terra, attrezzarsi con pantaloni distruggibili, eccetera. E quindi io direi proprio di farsi prendere da loro e anche dalle cose che abbiamo in casa, vedendole magari da un altro punto di vista, no? Oggi avevo un mestolo in mano e, ecco, i miei figli mi stanno chiamando, ad esempio. Avevo un mestolo in mano, mia figlia fa: ah, facciamo che tu sei il generale e noi soldati che scappiamo. Ah, ok, è che li ho seguiti per casa con il mestolo, siamo andati avanti mezz'ora a fare questa cosa, non gli ho fatto niente ovviamente, ma mi sono divertito un sacco, ecco. Per cui, secondo me, lasciarsi andare anche la loro fantasia e per vedere dove si va, ecco, a finire. E tra l'altro, questo mestolo in mano, Matteo, mi ha fatto venire in mente subito la tua peperonata. Magari poi dopo ci dai qualche dritta anche tu su cose che si possono fare. ridi, poi dopo ti metto con grande piacere. Assolutamente. Ricordiamo il giocalibro della famiglia GBR, edito da De Agostini, con tantissime dritte su giochi da fare anche e soprattutto in casa in queste settimane, e poi il canale YouTube, che insomma è sempre una boccata d'aria digitale, perché è un display, però anche lì ci sono tantissimi giochi all'aperto, che è divertente perlomeno vederli fare, e poi uno si segna gli appunti e tra qualche settimana, insomma, quando potremo uscire, possiamo poi riprovarli tutti. Grazie davvero a Davide, sì, salutaci. Grazie. Ci sono anche delle idee per casa, e poi ecco, c'è anche l'applicazione GBR, cercare GBR con i dadi, se avete perso i dadi, e con altri strumenti, la ruota della fortuna che piace ai bambini, per giocare proprio in un salotto, usando lo schermo per giocare nel mondo vero, insomma, quella è gratuita e ci sono tanti spunti. Se per lanciare i dadi devi lanciare lo smartphone, no, basta seccherare, non facelo. Okay. Grazie davvero Davide, ciao, buona domenica. Grazie a voi ragazzi. Ciao Davide. Dopo aver giocato e aver raccolto un sacco di dritta, adesso è il momento della musica, e insomma ci ha suggerito questa chiacchierata un collega giornalista, un giornalista musicale di Repubblica, Ernesto Assante, che proprio un paio di giorni fa ha fatto una bellissima riflessione sulla playlist domestica Padri e Figli Insieme, visto che appunto c'è tempo e la musica può essere un punto di incontro, e allora sfruttiamola e diamo il benvenuto ad Ernesto Assante. Ciao Ernesto, buona domenica. Buona domenica a voi, eccoci. Allora, beh, insomma, ti sei divertito, credo, a mettere insieme un po' di brani musicali che possono essere ascoltati insieme padri e figli. Ma è il padre che deve convincere il figlio ad ascoltare le proprie musiche del passato, o è il figlio che deve convincere il padre ad ascoltare la musica contemporanea? Da dove si parte? Credo che il punto di partenza siano i figli, nel senso che negli anni scorsi noi padri, avendo un gap generazionale ristretto musicalmente parlando, ci siamo potuti consentire, magari spesso inascoltati, ma insomma ci abbiamo provato di certo, siamo potuti consentire di far ascoltare le nostre musiche, le nostre canzoni, quello che ci è sempre piaciuto far ascoltare ai ragazzi quando non potevano fare altro, perché erano troppo piccoli per poter comandare sullo stereo di casa o quello dell'automobile. Quindi molti dei nostri ragazzi sono cresciuti conoscendo per per necessità, non per voglia, i Beatles o De Gregori, perché bene o male glieli abbiamo fatti ascoltare. Non è successo ancora il contrario, o almeno sta succedendo sempre di più ultimamente, perché la vicinanza, la costrizione della vicinanza ce lo impone, di ascoltare la musica che noi consideriamo stupida o inutile dei nostri figli adolescenti, soprattutto rap e trap, per magari scoprire che ci sono delle cose che vale la pena ascoltare. Quindi diciamo che siamo noi a doverci mettere in ascolto con le playlist dei più giovani. E secondo te l'approccio migliore qual è? Noi genitori, noi padri, andare a chiedere ai figli: facci ascoltare qualcosa della tua playlist? Beh, quello, guarda, a parte la risposta classica, come solito, anche voi da me, perché suppongo che sia la risposta standard, direi di sì, perché come dire, sarebbe anche interessante poter dare ascolto alla richiesta di un ragazzo che ti dica: beh, senti con me Madame, o senti con me Night, o qualche altro dei rapper dell'ultima generazione, e trovare dei genitori finalmente costretti a doversi sedere lì e sopportare un paio di minuti o tre minuti di musica completamente nuova. Però secondo me è interessante anche invece il meccanismo inverso, cioè il dimostrare finalmente un po' di interesse per questa musica che abbiamo, secondo me, per molti versi sottovalutato, e che invece sta scatenando una vera e propria rivoluzione nel panorama musicale italiano. In questi 2 anni la scena musicale italiana si è completamente rivoltata, improvvisamente sono diventati vecchi artisti che hanno se non 30 anni, come Francesca Mignolino, Emma, per dire, e perché sono arrivati molti adolescenti, molti giovanissimi, tantissimi, che hanno un grandissimo successo presso i loro coetanei e non presso il pubblico più adulto, gente quindi che va, scala le classifiche di streaming ma non arriva né in radio né in televisione, che è ignota al grande pubblico e che invece veste i panni delle star per il pubblico più giovane. Matteo? Ma io stavo pensando, ascoltando Ernesto, che io sono cresciuto ascoltando i dischi di John Coltrane, di mio padre, oltre che naturalmente Cuccini, Dalla, tutto il cantautorato italiano, ed è vero che noi una volta ascoltavamo la musica dei nostri padri, anche se magari non l'ascoltavamo necessariamente insieme. Io ricordo molti ascolti quando mio padre era al lavoro e io ero a casa da solo, no? E pensavo appunto a quale opportunità unica per i padri possa costituire questo periodo, no? Quindi lo chiedo a Ernesto proprio come esperto musicale: come cambia l'ascolto di un brano musicale se fatto insieme rispetto a quando lo facciamo da soli? Se cambia, perché in effetti la musica, insomma, a differenza della lettura, è un'esperienza che si può fare in entrambe le maniere, no? Domanda bellissima, alla quale la risposta più semplice è: cambia tutto. La musica ascoltata insieme cambia dimensione, forza, natura, profondità, è un altro tipo di ascolto, è un altro tipo di musica. La stessa canzone ascoltata da soli ha un senso, ascoltata in due ne ha un altro, ascoltata in concerto insieme a 10.000 persone ne ha un altro ancora, e questo io trovo che sia un potere straordinario da questo punto di vista della musica, che altre arti non hanno per propria natura. E quindi credo che l'esperienza dell'ascolto collettivo a casa in questi giorni possa essere peraltro una novità. Noi, io ho 62 anni, per noi era anche un'abitudine ascoltare i dischi insieme agli altri amici, abitudine che si è persa completamente perché, come sai, le cuffie, gli auricolari sono fatte apposta, e gli smartphone, lo streaming per l'ascolto solitario, i giradischi dentro casa non ci sono più, gli impianti stereo sono rari, quindi anche gli strumenti dell'ascolto collettivo sono pochi, ma le casse, che appunto gli speaker, gli smart speaker che consentono di ascoltare musica insieme, sono anche queste una novità che è arrivata da poco e quindi che consente nuovamente di inondare la casa di musica e fare in modo che tutti i componenti della famiglia ascoltino la stessa cosa, avendo magari reazioni diverse ma cambiando la musica stessa. Quindi penso che sia un'esperienza fondamentale, non solo per migliorare la qualità dell'ascolto ma anche per la crescita personale. Ascoltare la musica con gli altri cambia noi stessi. E cambia, può cambiare veramente il modo di vivere queste giornate. Grazie davvero ad Ernesto Assante per essere stato qua con noi in questa puntata dei Padri Eterni. Ciao Ernesto, buona domenica. Grazie a voi, grazie. Silvio, che fai? Ah, ciao Ivana, scusami, sono un po' impegnato. Ma dai, cos'è sta storia ora? Dai che dobbiamo andare a correre. No, oggi no, guarda, la 4 a buca all'angolo. Ti ricordo che ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 parliamo di running, di corsa, di atletica, di triathlon. Lo so, però è la 12 al centro e quindi? Per parlare di corsa bisogna correre. Scusa, il biliardo non vale? No, non vale, devi correre, nuotare o pedalare. Tu comunque sottovaluti il biliardo, è tutta una cosa di testa, concentrazione, gesto. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. Il Policlinico di Milano ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. Il Policlinico di Milano, con i suoi medici, anestesisti, infermieri, tecnici e biologi, è in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Padri Eterni. 2013, Moreno. Per la gente che davvero merita, dovete mantenere una distanza debita. Ho calcolato la distanza, gli occhi tuoi al buio che mi incantano. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua con i Padri Eterni, vi stiamo dando un po' di dritte ma anche un po' di riflessioni su queste giornate segnate dal coronavirus, giornate che ci portano ad essere più presenti con i nostri figli, ma non sempre, ma ne parleremo fra pochissimo. Però avevamo chiesto a Matteo Bussola appunto di darci prova della sua creatività culinaria, perché anche il cucinare insieme può essere un'attività di queste settimane. Matteo, siamo pronti? Cosa hai preparato per noi? Ma guarda, io suggerirei 5 cose molto semplici e di sicuro successo da fare proprio insieme ai propri figli o alle proprie figlie. Vai. Partirei dalla prima, insomma, naturalmente la pizza, che comunque è sempre divertente da fare insieme e che comunque alla fine riesce sempre bene. L'unico accorgimento che mi permetto di darvi, senza essere per carità un cuoco o uno specialista, è che in linea generale meno lievito si mette e maggiore tempo di lievitazione, più la pizza viene buona. Okay, pensavo fosse un consiglio di usate ingredienti strani, colorate, la fate la faccia, no. Invece no, poco lievito e vabbè. Secondo poco consiglio. Lievito. Secondo consiglio per una colazione, insomma, divertente, il pancake, un grandissimo classico. Anche qui non mi avventuro in consigliarvi o suggerirvi dosi, esistono degli ottimi preparati già pronti in commercio ai quali basta aggiungere uova e latte e insomma poi si possono farcire con lo sciroppo d'acero, con la marmellata, con quello che si vuole, e sono una maniera per rendere la colazione più festosa. Il terzo piatto, che insomma fa anche bene, il minestrone, che personalmente io suggerisco di fare sempre con le verdure di stagione, ma anche qui, dato che non tutti magari hanno tempo o non tutti sono sufficientemente pratici, va benissimo anche quello in busta, già pronto, surgelato. La cosa importante è far aggiungere ai nostri figli, ai nostri bambini, tutto quello che vogliono. Quindi se vogliono aggiungere delle carote affettate, se vogliono aggiungere degli spinaci, se vogliono aggiungere delle erbe aromatiche tritate da loro, fateglielo fare, così diventerà il minestrone di tutta la famiglia. Poi il quarto, insomma un grandissimo classico, il sugo. Questa, io insisto, è una maniera per trasmettere anche un po' di cultura culinaria. Non fate sempre solo quei tristissimi sughi con la passata già pronta, non ci vuole niente a sbollentare nell'acqua bollente della pasta 2 o 3 San Marzano per 40-50 secondi, togliergli la buccia, fare togliere ai bambini i semi interni e farli andare con un goccino di olio extravergine d'oliva in una padella. La differenza è assoluta. E infine, se volete vincere facile, insomma, il piatto migliore che potete fare con i vostri figli è semplicemente affettare un panino e spalmarlo con abbondante Nutella. Ok, ho temuto il minestrone per un attimo, perché dopo questo elogio al minestrone ho detto adesso me lo propone anche nel panino, e invece no. Comunque, Bussola, complimenti per l'entusiasmo, non ti ho mai sentito parlare con così tanta foga e tanta diciamo, è veramente quasi quando parli dei fumetti, capito, ne parli con meno piacere, proprio la cucina, vabbè. Grazie davvero per queste dritte, segnatele, insomma, questo è stare insieme ai propri figli. Però abbiamo riflettuto molto in queste giornate, ricevendo anche un po' di mail, perché ci sono situazioni invece che sono l'opposto, ci sono situazioni di genitori, di padri che per settimane non potranno vedere i figli perché sono divisi dalla quarantena, perché magari fanno lavori a rischio, lavori di fragilità, quindi sono costretti proprio a stare lontani per una settimana, due settimane, oppure perché sono genitori separati, insomma, è questa situazione complica tutto il resto, quando già è molto complicato di per sé. Per capire come e quale strategia anche adottare nel vivere una relazione a distanza, no? L'essere costretti ad essere via, abbiamo chiesto aiuto a un amico. E lui è un avventuriero, è uno che per le sue imprese è abituato a stare via mesi, a stare lontano dalla famiglia, lontano dalle figlie, e quindi ha elaborato nelle sue esperienze proprio anche delle tecniche per esserci senza esserci. Diamo il benvenuto ad Alex Bellini. Ciao Alex, buona domenica. Ciao Federico, ciao Matteo, anche a te. Ovunque tu sia, ho capito che non siamo vicini uno con l'altro, questo ci salva. E questo ci unisce anche. Ciao Alex. ci unisce anche, certo. Allora Alex, quando ti ho chiesto appunto di essere ospite, insomma, inizialmente anche un po' eri titubante, no? Perché è vero, è il periodo in cui tutti danno consigli, tutti hanno qualcosa da dire. Io però ti ho insistito perché ho detto vai a scavare nella tua esperienza. Si può stare lontani dai propri figli essendoci? Io sono molto contento di partecipare a questo dibattito, anche perché, come hai detto tu bene, mi ha visto spesso nella stessa situazione. Allora, prima che qualcuno di quelli che ci stanno ascoltando mi lanci le ciabatte dietro dicendo ma è una cosa diversa, me ne rendo conto che sia molto diverso, anche perché nel mio caso la distanza era programmata, quindi si potevano fare tante piccole azioni di preparazione in vista della distanza. Oggi ci troviamo tutti quanti, chi più chi meno, a dover reagire a una distanza che non avevamo preso in considerazione. Quindi la premessa è che mi rendo conto che ci siano grosse differenze. Tuttavia si può imparare dall'esperienza delle altre persone, quindi sono più che contento di condividere con chi ci sta ascoltando le maniere in cui ho gestito la distanza. Io mi ricordo nel 2008 quando attraversai l'Oceano Pacifico in barca remi, che fu sino al momento presente il periodo più lungo che rimasi lontano da casa, circa 10 mesi. Mi ricordo molto di questo senso di isolamento e di solitudine che vivevo sulla mia barca. E quindi all'epoca, per quanto non avessi figli, ma avessi un rapporto molto, come dire, con mia moglie, quindi per quanto ci siano delle differenze, però la distanza era la stessa, mi ricordo che la cosa che più mi aiutava era mantenere aperto il canale della comunicazione, perché talvolta la distanza paradossalmente ci chiude in noi stessi, quindi anziché lavorare mantenendo attivo la comunicazione, si tende quasi a richiuderci verso noi stessi, mentre era molto utile le chiamate periodiche con mia moglie, che mi facevano ricordare che comunque le cose succedevano e ci si poteva vicendevolmente alimentare con un po' di ottimismo e fiducia sul futuro. Poi un'altra cosa molto utile, che può essere utile anche alle persone che ci stanno ascoltando, è fare la stessa cosa alla stessa ora. Quindi sapevo che mia moglie, ma poi è successo anche più recentemente con i viaggi che mi hanno ancora visto lontano da casa per tempi più brevi, però con le mie figlie, fare la stessa cosa nello stesso momento. Sapevo che alle 7:30 la mia famiglia generalmente si riunisce a tavola, e quindi alle 7:30 ovunque io mi trovi nel mondo, ovviamente con le differenze di fuso orario, mi trovo un momento per sedermi al tavolo e far finta di essere in compagnia della mia famiglia a quel tavolo che invece non vede nessuno attorno a me. E poi un'altra cosa molto utile, se ho tempo ancora per un punto sì, da condividere, è fare i piani per quello che verrà dopo. Questo alimenta un senso di ottimismo, di speranza. Quindi fare che cosa vogliamo fare quando tutto sarà finito, quando potremo nuovamente rivederci, abbracciarci, che cosa farà, cosa sarà la prima cosa che potremo fare o che vorremmo fare? E quindi spostiamo l'attenzione dal momento presente, che per qualcuno è nero, al momento in cui le cose andranno meglio e potremo dedicarci a fare qualcosa di positivo. Poi, per chiudere, non voglio necessariamente farlo psicologo, però una cosa io ho imparato nelle mie avventure e anche disavventure, perché ne sono capitate molte, ossia che non è importante ciò che ci succede, ma è come reagiamo alle cose che ci succedono e che cosa facciamo con le cose che ci succedono. Quindi potremmo anche banalmente trarre spunto per imparare qualcosa di nuovo e renderci conto che se abbiamo per tanto tempo ignorato il fatto di dover alimentare quotidianamente una relazione, possiamo imparare da questo momento per decidere di fare qualcosa di diverso a partire da domani, dopodomani o quando le cose ci permetteranno di ritornare in possesso delle nostre vite, e proprio per non cadere nuovamente nello stesso errore. Questo mi sembra veramente il consiglio più bello, insomma, di riuscire, no? a guardare avanti. Matteo, hai una riflessione finale su quello che ci ha detto Alex? Sono del tutto d'accordo con Alex, devo dire, soprattutto su questa cosa di prepararsi, di considerare questo periodo quasi come una rincorsa, no? Per il meglio che sicuramente arriverà, perché questa situazione finirà e ci vorrà trovare pronti. Alex, grazie davvero per le tue riflessioni, bocca al lupo, so che anche insomma i tuoi viaggi in programma verranno rinviati per ovvi motivi, ma saremo sempre qui a seguirti con le prossime imprese, tutte dalla parte dell'ambiente. Grazie davvero ad Alex Bellini. Ciao Alex, ciao Matteo. Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ci avviamo alla chiusura di questa puntata dei Padri Eterni, però insomma vi abbiamo dato tante dritte, abbiamo riflettuto anche sulla troppa vicinanza, la troppa distanza, adesso volevamo ritornare sul fare. Perché? Perché la pedagogia del fare è uno dei cavalli di battaglia del prossimo ospite. È un pedagogista e docente dell'Università Cattolica di Milano, un imprenditore sociale, ma da anni lavora con le ragazze e coi ragazzi e appunto mette al centro il fare insieme. E anche questo tempo particolare, tempo fragile, tempo forse anche privilegiato per fare qualcosa insieme con gli adolescenti, vogliamo saperlo da lui. Diamo il benvenuto a Johnny Dotti. Ciao Johnny, buona domenica. Ciao a te Federico, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao. Allora Johnny, ciao. Cosa vuol dire quando parli di pedagogia del fare, cosa intendi? So che insomma ci vorrebbe forse un programma intero e non basterebbe, però puoi farci un esempio, puoi darci una sintesi. No, intendo che in particolare a partire da quando comincia la maturità sessuale, e quindi che è sempre più anticipata, 12 anni, 13 anni, vale sia per i maschi che per le femmine, la partecipazione alla vita attiva e al contribuire al benessere proprio degli altri attraverso azioni concrete, io lo reputo fondamentale, perché questo è l'uomo è una persona integra, intera, e quindi ha bisogno di esprimersi con le mani, con il cuore e col cervello. Se si taglia un pezzo di questi, secondo me si hanno dei mezzi uomini e delle mezze donne. È sempre complicato muovere un adolescente, sembra almeno, dalla sua camera, dal suo display, dal suo smartphone. Lo è ancora forse di più in queste giornate dove siamo costretti a stare in casa. O invece può essere uno spazio opportuno questo per tentare qualcosa di nuovo? No, io dico che è un tempo molto buono, non voglio fare il facilone, però se la devo usare una parolona, si tratta di responsabilizzare i desideri. C'è ognuno di noi nel proprio cuore i suoi desideri, tra l'altro il desiderio ha bisogno anche di un tempo lento per uscire, a volte ha bisogno di noia, mentre correndo sempre si è compressi quasi sempre dentro bisogni e risposte, no? Questo tempo è un tempo opportuno per far che cosa? Ma le cose più semplici: collaborare a sistemare un pezzo della casa, contribuire a dare una mano ai nonni, essere disponibili a prepararsi un uovo cotto e imparare a farsi da mangiare, cioè tutte cose che sembrano banalità, che oggi sono quasi tutte rubricate solo nei servizi che si comprano, invece sono fondamentali per fare venire al mondo il figlio, perché il figlio ha bisogno di venire al mondo anche sentendo che è importante, perché contribuisce alla vita sua e alla vita degli altri. Matteo. Johnny, mi colpisce molto, no, questo concetto di contribuire al benessere degli altri, che direi che come in questo periodo è utile ed è calzante, no? Mi chiedevo proprio questo, cioè come si può riuscire a trasmettere ai nostri figli, agli adolescenti, il senso di appartenenza a una comunità e non solo necessariamente alla propria famiglia? Ma guarda, io nella piccola esperienza di questi 30 anni ho imparato che bisogna cominciare da un'età in avanti a fare le cose con i ragazzi e le ragazze, non fare le cose per i ragazzi e le ragazze. Cioè uscire dall'idea del preparare le cose per loro, fatte con loro, i progetti per loro. Invece è molto importante farle con loro, e questo rende già nella relazione il tema della comunità dentro la relazione, perché quando tu ti apri a fare qualcosa con qualcuno, gli altri ci entrano sempre, sempre, perché poi la cosa che fai riguarda sempre qualcuno che va al di là della diade, no? Della coppia padre figlia, figlio figlio, cioè si apre il tema della fratellanza, lo dico in senso molto laico, ma degli altri. Se vuoi fare un giro in montagna, se vuoi fare suonare la batteria, se vuoi sistemare delle panchine, è che invece oggi noi siamo malati appunto di know-how. Noi immaginiamo che bisogna saperla tutta prima. Io dico sempre no, bisogna essere un po' malati di know why. E bisogna far innamorare i ragazzi del know-why, non solo del know-how. Anche perché c'è un po' il pregiudizio, no? Che il tempo del fare sia tempo rubato al tempo dello studiare, forse. Certo, però tu pensa, sono andato a vedere Raffaello prima che il giorno che l'hanno aperta, no? Ho avuto la fortuna, ero a Roma, poi sono tornato su. Cioè Raffaello non ha fatto le scuole, Raffaello. Caravaggio non ha fatto le scuole, Michelangelo non ha fatto le scuole. Leonardo non ha fatto le scuole, io insegno e so com'è importante la scuola, ma lì tutta l'attività, se tu leggi il contratto di apprendistato tra Caravaggio e il suo mentore, c'è una bella mostra a Bergamo, è stupendo, perché è un vero contratto di apprendistato, cioè ci si impegna a mettere al mondo una persona nuova. Ora noi invece abbiamo separato tutto, e tu lo vedi nei disastri poi della patologia dei ragazzi, sono patologie di dipendenza, patologie legate alla depressione, e perché secondo me non viene messa al mondo la persona intera, ma l'abbiamo sezionata. Quando uno è maturo dal punto di vista sessuale vuol dire che può fare un figlio, non so se noi lo capiamo questo, può fare un figlio. Ora noi riteniamo scandaloso se uno ha un figlio a 18 anni e invece non scandaloso se uno esce di casa a 35 anni. Per me questo è un problema enorme, enorme, enorme, che non è colpa dei ragazzi, è colpa nostra, proprio nostra. Matteo, vuoi aggiungere qualcosa? Ma guarda, mi ha già risposto in realtà Johnny, perché volevo chiedergli proprio come si trova, no, questo equilibrio tra il trasmento poi che i figli rappresentano sempre, no, e la tradizione, cioè come si può riuscire a trasmettere. Usi delle parole che mi sono carissime, capito? Esattamente, ma la tradizione per essere onorata va costantemente tradita. Tradere vuol dire consegnare. Tu non consegni una forma, consegni un principio, e per renderlo vivo quel principio hai bisogno di rigenerarlo costantemente. In questo senso far sentire i ragazzi dentro questo tipo di movimento è determinante. È determinante. Questo fa soffrire, ma fa anche gioire. Questo ti fa incazzare, ma ti fa anche diventare simpatico. Cioè vivi completamente quella cosa lì. Invece c'è questa idea che tu continui a prepararti e prima o poi entrerai nella vita. Ecco, io penso che sia una follia. Johnny, a proposito di tradizione, il 19 marzo, lo sappiamo, è la festa del papà in tutti i paesi, in tutte le nazioni cattoliche, no? E viene abbinata la giornata di San Giuseppe. Tu hai parlato, hai studiato e scritto molto su San Giuseppe padre, ma come mai? Puoi darci anche una visione laica? Perché Giuseppe era un buon padre? No, io credo proprio che sia un che sia il padre, il simbolo del padre. Uno non dice una parola, la sua parola è il figlio. Secondo, custodisce il sogno del figlio, non il suo sogno sul figlio. Terzo, c'è sempre nei momenti importanti, dalla nascita alla preadolescenza. Quarto, accetta i traumi che il figlio e la madre gli portano. Lui parte da un tradimento, capito? La Madonna l'ha tradito, non c'è niente a fare, se l'aveva tradito con lo Spirito Santo, ma l'ha tradito. E lui supera questi passaggi, e superando questi passaggi è il padre, e non è il padre adottivo, putativo, di riserva, è il padre, capito? Il Vangelo di Luca conclude dicendo: tuo padre ed io eravamo molto preoccupati. E Gesù veniva chiamato il figlio del falegname. Umanamente il padre è sempre adottivo, non si è padre perché si è genitori, si è padre perché si è degni del sogno del figlio. Insomma, chiuderei con queste parole, no? Una visione anche laica, appunto, di Giuseppe. Ringraziamo davvero Johnny Dotti, ve lo ricordo ancora, pedagogista, docente dell'Università Cattolica di Milano, imprenditore sociale col quale ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dei Padri Eterni. Grazie ancora Johnny. Grazie a te, ciao. Federico, grazie a tutti, grazie anche a Matteo per le domande intelligenti. Ciao, buona grazie, domenica. Ciao. Matteo, è finita anche questa puntata, insomma una puntata in remoto, no? Ognuno da casa propria, ma ce l'abbiamo fatta perché volevamo esserci, perché crediamo sia importante comunque essere vicini alle famiglie, non solo ai padri, alle madri, ai figli, insomma esserci con degli spunti, con delle riflessioni, e credo che anche questa puntata abbia dato tanto materiale. E ringraziamo tutta la squadra di Radio 24, ringraziamo gli amici di Radio Immaginaria che ci hanno dato la possibilità di essere in onda oggi con questa puntata registrata. Grazie Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana a te. L'appuntamento come sempre con i Padri Eterni è domenica prossima alle 11. Per riascoltare il podcast vi ricordo il sito www.radio24.it.